se non che una mattina io ero di sviluppo ritardato, io dimostravo di meno di quello che avevo. Uscì e i tedeschi da Viale Giulio Cesare cominciarono a spignare la gente. Io cercai di andare da qualche parte a infilarmi, ma altri tedeschi venivano e spingevano verso Piazza Risorgimento. Se non che pure dalla parte del Vaticano, dalla parte di Castel Sant'Angelo, dalla parte di Piazza Cavour, stringevano. E portavano tutta sta gente, sta massa di gente che... come la pesca al tonno, la pesca al coso, al cefalo, quando vanno nei porti che hai reti, che porti nei cefoli. Nella stessa maniera, ci portano tutti lì a Piazza Risorgimento. Immagina la paura, se cagavamo sotto dalla paura tutti quanti. Perché... e lì non sapevi che succedeva. Se non che cominciarono dentro fuori, cominciarono a fare scernita e a me mi buttarono fuori. Quell'altro si caricarono e si portarono tutti via, coi cami, si caricarono tutti sui cami. Poi mi ricordo un altro fatto che proprio quello mo ricorderò fino a che campo. A Porta San Pancrazio c'era un fornaio. E stava di fronte a una caserma di carabinieri che stava all'angolo. Hai visto di fronte a Porta San Pancrazio? C'è un portoncino all'angolo, lì c'era una caserma dei carabinieri. E venendo verso Villa Panfili, subito sulla sinistra, sempre di fronte ai carabinieri, c'era sto fornaio. Papà mi manda lì e mi dice, va lì che te de... vanno a vedere il Comitato di Liberazione Nazionale che ti dà il pane, ti dà un sacchetto di pane. Vado lì, dico, io vengo per parte del Comitato di Liberazione Nazionale. Dice, aspetta. Ho aspettato, ma non c'era nessuno. Mi dà sto pacco, ben sigillato, che non si capiva che era, se erano panni sporchi, quello che poteva essere, non si capiva. Mi dà sto pacco e io vado. Arrivo a Donna Olimpia e gli faccio a papà. Dico, papà, noi c'eravamo fame, almeno... uno sfilatino per noi, e mi pare giusto, no? Dice, sì, c'hai ragione, intanto porta questo a pescatori. E mi dà una busta con 5-6 sfilatini. Il pescatore era uno che era cattolico, però si era sposato un ebrea, e c'aveva 5 figli, più piccoli di me. Apre, dico, il Comitato di Liberazione Nazionale gli manda sto pane. Dice, hanno detto che vi dovete contentare che ne è capitato altro. Dice, beh, entra. Entrai e lui do sto pane sul tavolino. I ragazzini che si sgomitarono uno con l'altro come lupi affamati che si sono mangiati sto pane. E lui in piedi, fermo, che si guardava così serio. Lui non ha toccato una mollica. Tuttora mi sa grinciare la pelle a pensarci. Ma una fame del genere non me l'ero mai sognata. Quelle sono cose che non si possono dimenticare. Quella era fame. Ma lui che riuscì, senza toccare una mollica, guardassi i figli che si sgomitolavano. E i mollichelli per terra, sul tavolino non ce n'è rimasta manco una, se le sono mangiate tutte. Che la lingua andavano a cercarle. E quello solo perché aveva sposato un ebrea. Lui non era ebreo, lui era cattolico. Perciò loro c'avevano con ebrei, no. C'avevano pure con chi appoggiava gli ebrei.